Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a voi, quella che sta per iniziare sarà la nostra trasmissione numero 308, come sempre in onda dai liberi microfoni di Radio Onda Rossa. Chi vi sta parlando è Caterina. Stasera vi faremo ascoltare un contributo sonoro relativo ad un'intervista fatta qualche tempo fa a Miriam del Comune di Milano e responsabile della Casa dei Diritti e ad Antonia che è la referente dello sportello LGBTQI di quella struttura. Ricordo che l'acronimo LGBTQI sta per lesbiche, gay, bisessuali, transgender, qui ed intersessuali. Abbiamo pensato di fare questa intervista perché la Casa dei Diritti di Milano è stata inaugurata il 13 dicembre del 2013 ed uno degli scopi per i quali è stata allestita è quello di favorire l'incontro, l'ascolto e il dialogo con e fra i cittadini. A distanza di un anno dalla sua apertura ci sembrava interessante andare a vedere come stavano le cose. Dopo una breve pausa musicale manderemo in onda la registrazione dell'intervista. Buon ascolto. Has nacido oprimida, quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías. Luchar fue tu verbo olvidado. Miraste horizontes perdidos, mujer, te has estado entregando a ciegas como el aire en el llano. Mujer, oye tú mi llamado por ti, la esperanza ha brotado por ti, vuelve y nace la vida y nace una nueva ilusión. Luchar aminora tu llanto, vivir en lo libre, en lo amado. Sin ti hay instancias vacías. En fin, puedes prender la llama, mujer. Oye tú mi llamado por ti, la esperanza ha brotado por ti, vuelve y nace la vida y nace una nueva ilusión. Luchar aminora tu llanto, libre y lo amado. Sin ti hay instancias vacías. Sin ti ya no existe el amor. Allora, io non so se Antonia ti ha anticipato, posso dare del tu? Ok, non so se Antonia ti ha anticipato che cosa facciamo noi. Noi siamo il Coordinamento Lesbiche Romane, che è un gruppo politico di Roma che ha la sede all'interno della Casa Internazionale delle Donne e che da dicembre del 97 tiene e cura una trasmissione radiofonica all'interno di uno spazio autogestito su Radio Onda Rossa. Allora, in una di queste trasmissioni noi volevamo fare appunto una trasmissione su questa splendida iniziativa che avete fatto a Milano. E quindi io avevo mandato via Skype prima delle domande, non so se le avete ricevute. Non ho avuto il tempo di leggerle. Ah, ok. Ci siamo anche, guarda. Sì, sì. Va bene, va bene. Allora, se ti vuoi presentare, intanto poi io avevo delle domande da farti. La prima è intanto cosa è la Casa dei Diritti e da quanto tempo è stata aperta? Se ci puoi, ok? Va bene, allora io sì. Sono Miriam Pasqui, sono una dipendente del Comune di Milano e sono la funzionaria che ha la responsabilità di gestire la Casa dei Diritti. Allora, Casa dei Diritti è un oggetto particolare, diciamo così, è un servizio all'interno della Direzione Politiche Sociali e Cultura della Salute ed è uno spazio articolato che tiene insieme diverse cose, per cui alcuni servizi tradizionali che afferiscono alle politiche sociali, che sono la rete dei servizi sul maltrattamento e la violenza di genere, quindi le donne sulle donne, il servizio tratta, e un pezzo dei servizi legati alle dipendenze tossico e alcol dipendenze. E poi tiene dentro una serie di, chiamiamoli sportelli, ma io li chiamerei più spazi, perché in realtà non sono solo sportelli aperti al cittadino, ma anche ambiti di riflessione, di iniziativa, di elaborazione, che sono lo spazio LGBT contro le discriminazioni di identità di genere e orientamento sessuale, registro di attestazioni di signorità, lo sportello che si chiama Tutta la genitorialità possibile, che in realtà è uno sportello di consulenza sui temi della fecondazione assistita, uno sportello antidiscriminazione su base etnica e razziale e uno sportello che si chiama Milano Sono Anch'io, che invece è dedicato alle seconde generazioni e all'inclusione sociale dei ragazzi nati in Italia ma da genitori stranieri, quindi non ancora cittadini italiani. Ho capito. Abbiamo un salone che utilizziamo in realtà per spazi ed eventi, convegni, conferenze, proiezioni di video, film, presentazioni di libri sui temi dei diritti. Ho capito, ho capito. Senti, ma quante persone ci lavorano in questa Casa dei Diritti? Allora, siamo 7 dipendenti comunali più un paio di persone, personale ausiliario, custodi, di guardiania, e poi tutta una decina di persone. Ho capito. Tu sai che io ti ho accennato, noi siamo un gruppo lesbico, quindi pur reputando estremamente interessante tutta la Casa dei Diritti, diciamo che nello specifico in questo contesto ci farebbe piacere magari parlare con Antonia, che è la referente dello sportello LGBT, diciamo che c'ha una certa attinenza a quello che facciamo noi, quindi se non ti dispiace... Antonia è qua, così entra un pochino più nel merito di come la casa, solo per dirvi la data, per chi fa un'idea sulle tempistiche. Allora, la casa è stata inaugurata a dicembre del 2013, però operativamente il personale e la struttura si è attivata da febbraio 2014. E Antonia è stata reperita con una selezione interna, quindi una persona assolutamente competente e motivata, e quindi è la referente dello sportello LGBT, per cui ti faccio parlare con lei. Ok, ti ringrazio infinitamente. Ok, grazie. Ciao. Allora, Antonia, la prima cosa che mi viene spontanea a domandarti è che effetto fa sapere che nella propria città c'è uno sportello così e che sei proprio tu a gestirlo, questo sportello LGBT, quindi una domanda molto personale come impatto iniziale, poi andiamo magari in dettagli un pochettino più specifici. La prima risposta è che rispondo solo in presenza del mio avvocato. La seconda risposta è che sono inevitabilmente molto contenta di essere qui. Io ho seguito il percorso Casa dei Diritti sin dalla dichiarazione dell'assessore Maglietti, che è l'assessore di questo settore, che ha appunto dichiarato la nascita di questa casa al Pride dell'anno precedente. Quindi già allora mi si avvizzarono molti sensi e ho sentito passo passo diciamo, tutta la implementazione di questa casa fino ad arrivare al bando al quale poi ho partecipato e che mi ha portata ad essere qui. Sono consapevole della complessità di questa situazione e anche della realizzazione di alcuni obiettivi, che ovviamente non sono obiettivi solo di Casa dei Diritti, ma sono, come dire, nazionali, quindi certo. Casa dei Diritti è un piccolissimo spicchio di questa grande arancia che è in Italia e quindi fa il suo pezzettino. Sì. Le difficoltà e le difficoltà delle scelte politiche, le difficoltà degli indirizzi, ma anche dell'avere a che fare con il mondo delle associazioni che come è noto è abbastanza complesso già di suo. Ma infatti una domanda che ti volevo fare è quali contatti stai prendendo, con chi e per fare cosa? Allora, gli obiettivi che come sportello vi sono e ci siamo date, come ovviamente come Casa di Diritti, sono quelli di dire sì che a questo servizio, a questo sportello, conquistano richieste di riconoscimento di diritti civili, quindi per le persone LGBT i diritti civili sono assolutamente assenti, quindi anche la cosa più semplice che può essere, come spesso cercato di sentire in questi tempi, è quello che le cose più banali, cioè le applicazioni per esempio del registro dell'unione civile che il comune di Milano ha, ed essendoci molte coppie omosessuali iscritte, anche l'applicazione delle cose diciamo di base che il registro dell'unione civile prevede in realtà può essere abbastanza complicato, perché anche tutte quali gli altri settori, scuole, educazioni, lavoro, eccetera. Certo. E quindi già portare a casa, come dire, l'applicazione di quello che c'è già su carta è un lavoro molto, molto serio, molto importante, molto grosso, che ci mette nelle condizioni di avere non solo relazioni con tutte le altre aree del comune di Milano, ma con la cittadinanza, ovviamente chiede ragione e conto di quanto il comune ha messo su. Nero su bianco. Certo, tu però mi insegni che purtroppo ai noi l'applicazione di una cosa che già c'è, tipo l'unione civile, non garantisce comunque il resto del diritto che questo ti dovrebbe dare, no? C'è da lavorare nella scuola, in diversi settori, nella società. E allora mi stavo domandando come questo riconoscimento possa calarsi in un contesto, cioè come state lavorando affinché questo contesto sia pronto ad accettare questa innovazione. Stiamo lavorando innanzitutto promuovendo la Casa dei Diritti e le cose che la Casa dei Diritti fa, gli obiettivi che vuole raggiungere, quindi attraverso il Consiglio Comunale, abbiamo attraverso le varie opportunità, attraverso i nostri referenti legali, attraverso le associazioni, quindi c'è tutta una rete che stiamo costruendo per rendere operativo quel poco che in assenza di una legge che riconosca le coppie ma anche i singoli e le singole persone omosessuali con i diritti certo. In assenza di questo stiamo cercando di costruire appunto questa rete che ci consente di, come dire, rendere operativo almeno a livello territoriale quel poco che siamo riusciti a mettere nero su bianco. Certo, certo. Per cui abbiamo in mano la questione della trascrizione a livello economico, come mi ha trascritto, ma da qui a fare questo invito a quesito, come tu sai, la situazione è ancora molto... La strada è molto lunga. Poi a me viene sempre in mente, per esempio... racconto un episodio che mi riguarda, no? Io sono lesbica praticamente da sempre, però sono donna, per cui ogni tanto vado dalla ginecologa e la domanda che inevitabilmente ti fanno è: ha figli, che anticoncezionale adopera? E quando io rispondevo candidamente no, veramente non mi serve proprio perché sono lesbica, e io spesso ho trovato che la ginecologa comunque aveva delle difficoltà al riguardo, quindi mi pongo il problema, allargando chiaramente tutte le cose che le lesbiche e i gay fanno, nel rapportarsi con le istituzioni, con i medici. Cioè, secondo me andrebbe ipotizzato anche una forma di formazione proprio del personale, capito? Affinché poi... nel senso che noi ci stiamo adoperando affinché anche una fascia di personale, quantomeno del Comune di Milano, intendo, quantomeno quella che ha a che fare con la sede d'aiuto, il front office, adesso anche gli uffici dei servizi demografici, insomma, siano formati a raccogliere oltre, cioè anche le persone omosessuali che a loro si rivolgono, con sicuramente delle esigenze, delle specificità e delle richieste che non possono essere date, non devono essere date per scontate. Certo, okay? Anche il tema della salute è uno degli aspetti legati al registro dei diritti civili, per cui anche su quello dovremo in qualche modo metterci sulle mani prima o poi, quindi stabilire delle relazioni con i servizi sanitari locali, anche per tutta una serie di aspetti legati proprio alla salute. Certo, certo. Poi siamo andati anche a Bologna, sì, perché questa cosa in realtà di lavorare anche molto sull'interno e quindi su di noi come struttura amministrativa è una cosa che ci interessa molto. Sono andati a Bologna e hanno fatto questo questionario interno agli dipendenti sul livello di sessismo e di omofobia. Certo. È molto interessante perché in realtà dà un po' l'idea anche di, insomma, siamo una città medio piccola, perché ci sono circa 16.000 dipendenti al Comune di Milano. Sai, anche cominciare a sensibilizzare lì dove noi siamo rispetto a questi temi è già un passaggio importante, anche culturalmente importante. Certo, calcola che anche quando per esempio vai dal dentista, che ti deve mettere le mani in bocca per salvaguardare se stesso probabilmente, e anche giustamente ti fa riempire un modulo nel quale ti domanda se hai comportamenti a rischio. Cioè è una domanda, cioè, che definiscimi comportamenti a rischio, che vuol dire? Io ho una vita assolutamente normale, cioè il mio essere non è assolutamente considerabile un comportamento a rischio, no? Quindi voglio dire, la cosa va proprio allargata a 360 gradi, perché ormai si dà come consuetudine una forma di discriminazione ormai consolidata, e scalfire quella cioè vi aspetta un lavorone bello grosso, vi faccio tutti i miei auguri rispetto a questo. C'è stato che è una scommessa quotidiana. Immagino. Un'ultima cosa. Sì. No, l'altra cosa che volevo dirti è che la Casa dei Diritti e lo Sportello in questione promuovono tantissimi eventi che hanno l'obiettivo di raggiungere la cittadinanza, certo, quindi di essere aperti al pubblico in modo tale da, come dire, far veicolare pensiero, cultura omosessuale, che quindi sia, come dire, un altro patrimonio sostenibile. Certo, certo. Va bene, io sono molto contenta di aver fatto questa intervista. La manderemo in onda, ti farò sapere quando questa registrazione la inseriremo nel nostro palinsesto radiofonico, e poi ti manderò il link per poterla riascoltare. Grazie. Per il momento vi faccio tanti auguri, tanti complimenti e poi ho saputo così forse perché ci è arrivata tramite comunicazione via posta al nostro indirizzario del nostro gruppo che avete anche avuto dei contatti con Deborah Di Cave che sta creando lo stesso, sta cercando di creare lo stesso sportello anche a Roma. E quindi non lo so, voi siete un po' come dire, gli apri traffico, capito? Quindi aspettatevi se questa cosa andrà avanti che molti e molte si rivolgeranno a voi, va bene? Però ma siamo un po' anomali perché proprio siamo l'amministrazione comunale che apre rispetto ai cittadini. Perché Torino per esempio ha fatto una scelta diversa, sono avanti anni luce Torino, sul termine LGBT. Però loro lavorano molto con una cabina di regia interna, hanno proprio un'apertura diretta di rapporto e di relazione con i cittadini. Invece proprio adesso ci stiamo sconfrontando sul caso concreto di una mamma che vuole entrare nella commissione mensa della sua scuola, però non è la mamma biologica, è la mamma sociale di un bimbo, c'è questo problema perché non ha nessuna genitorialità da giocarsi. Certo. Allora cercando di capire come interagire con il settore educazione e cercare di porre un problema reale di discriminazione, insomma, così come questo è anche questo è discriminazione. Certo, assolutamente sì. Infatti la casa dei diritti è per tutti i diritti, no? Quindi va bene, allora di nuovo tante grazie. Non ho capito, scusa, che hai detto? Grazie a te, ah, grazie. Ok, sì, sì. Va bene, sì. Ciao, grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Sorry. Forgive me. Be mine. Vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbt.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Alcune indicazioni per contattarci. Potete chiamarci qui in radio fino alle ore 22 allo 06 49 17 50 oppure inviarci una mail a contatti@clrbt.it oppure visitando la nostra pagina Facebook del CLR oppure il nostro sito che ricordo è www.clrbt.it. Gli appuntamenti. Vi ricordiamo l'appuntamento assolutamente da non perdere previsto per sabato 20 dicembre che anche quest'anno il CLR è felice di proporvi. Si tratta dell'11ª edizione della Lesbotombola, quest'anno definita Lesbotombola sfigata, visti i tempi che corrono, ci sembrava il titolo più adatto. In palio ci sono tanti premi offerti dai nostri sponsor e dal CFS. Il programma della serata prevede alle 20:30 la cena di finanziamento del Centro Femminista Separatista, alle ore 22 l'11ª edizione della Lesbotombola e a seguire brindisi e dancing. Vi ricordiamo che l'ingresso a questa iniziativa è solo donne e che il tutto si svolgerà alla Casa Internazionale delle Donne via San Francesco di Sales 1B. It gets lonely. Allora, riprendiamo la trasmissione, sempre parlando con alcune considerazioni che ci sono venute dopo aver riascoltato insieme a voi la conversazione avuta con Antonia e Miriam della Casa dei Diritti di Milano. In quella intervista si è fatto riferimento al grosso lavoro da fare a livello culturale per far sì che vengano recepite le innovazioni sociali. Quindi vorrei a questo punto cercare di approfondire un po' meglio questo concetto. Troppo spesso siamo preda di una cultura discriminatoria che, celatamente o esplicitamente, fa assimilare quotidianamente i concetti omofobici attraverso una molteplice varietà di messaggi culturali. Messaggi culturali che noi del CLR, anche attraverso questa trasmissione, vogliamo combattere. Ecco quindi un altro esempio che spero possa farvi comprendere quanto sia difficile individuare le cosiddette linee guida che dettano la giusta via. Giusta via che permette, permette per modo di dire, meglio usare le parole giuste, che impone di effettuare la scelta adatta, quella più confacente al buon gusto, quella che ti fa stare dentro i canoni stabiliti, quella che ti rende accettabile, quella che ti fa essere normale. Attraverso questa strategia passa come unica possibile o più logica, e la cosa davvero sconvolgente è che chiunque la eserciti crede davvero di aver operato una libera scelta. Attraverso l'esempio che vi propongo voglio far palessare come e quanto siano radicati nella quotidianità i concetti discriminatori, arrivando ad essere incontestabili e dati di fatto. Voglio menzionare una commedia di Edoardo De Filippo, in cui in questi giorni e da qualche mese si sta parlando molto, visto che ricorre il trentennale della sua morte, che va a toccare l'aspetto riguardante la letteratura, quindi la cultura ufficiale, per di più anche blasonata. Non voglio con questo sminuire la grandezza di questo maestro del teatro italiano, però non posso fare a meno di sottolineare quella che si può definire forse da una parte una caduta di stile per Edoardo, ma che, cosa ancora più grave, rende leggibile il condizionamento sotterraneo che cela. Nella sceneggiatura di Mia famiglia, commedia in tre atti del 1964, Edoardo veste i panni di un capo di famiglia alle prese con due figli moderni. Una serie di avvenimenti si snocciolano ed il grosso del dramma viene fuori alla metà del secondo atto, quando le scelte dei due giovani figli del tempo vengono fatte passare a dir poco come sciagurate e discutibili, in poche parole sbagliate e pericolose. Questa situazione fa sì che il padre, interpretato da Edoardo, si chiuda in un mutismo fittizio causato dalla sua impossibilità di porre freno alle scelte dissennate del figlio e della figlia. Questo finto mutismo viene interrotto quando il figlio, che si trovava a Parigi per girare un film, torna improvvisamente perché sospettato dell'omicidio di un gay presso il quale era ospite e dove era approdato grazie all'aiuto dell'amico Guidone, anch'egli omosessuale. In questa scena, a metà del secondo atto appunto, il capofamiglia, e consentitemi, mai nessun termine risulta più appropriato del capofamiglia, ricomincia a parlare sputando sentenze a destra e a manca, non risparmiando nessuno e nessuna, né la moglie, né il figlio, né la figlia. In questo contesto Edoardo recita una frase molto esplicita che tragicamente e sorprendentemente rende lampante il concetto che vuole esprimere. una frase che può farvi rendere conto di quanto sia inevitabile attribuire ad Edoardo De Filippo il concetto di padre padrone. Ascoltate. Come fai a comandare in una casa e in una famiglia quando chi deve eseguire i tuoi ordini non è d'accordo con te? Quando tua moglie e i tuoi figli, invece di collaborare, di eseguire gli ordini che tu gli dai, ti dichiarano guerra, una guerra fredda, combattuta con l'arma dell'ironia, del boicottaggio, come fai a comandare? L'apice viene raggiunto quando, riferendosi all'amico del figlio, il guidone che abbiamo citato prima, lo apostrofa con l'appellativo di infelice. Infatti Edoardo, dando sicuramente prova di bravura, recitando con maestria la parte di un padre affranto dal dolore per l'accusa rivolta al figlio, riesce però anche a far traperare quelle idee omofobiche di cui accennavo prima. Il brano che tra poco vi leggerò è stato recitato con una violenza inaudita ed era rivolto alla moglie. Ascoltate. Quante volte ho predicato che quell'infelice in casa nostra non ci doveva mettere piede, invece niente. Guidone, a tutto passa, e tu per prima hai permesso che quell'individuo frequentasse i tuoi figli. Un uomo che appartiene ad una categoria di gente che non ha niente da perdere, che una famiglia non se la potrà mai creare. Che cosa ti vuoi aspettare di buono a una setta diabolica che funziona da un capo all'altro dei mondi, con ogni mezzo, persino con l'arte, si impongono e con il gusto raffinato, ma per carità, mettono su un negozio e tutti dicono è un negozio di raffinati. Ed Edoardo continua in tono ironico e scanzonato rispetto alla possibilità che i componenti di quella setta diabolica diventino parrucchieri, sarti, scrittori, dando tra le righe dello sciocco che si fa abbindolare a chiunque si faccia vestire, si faccia acconciare i capelli o legga i libri di quegli infelici. E allora mi domando, quante persone, dopo aver visto e rivisto questa commedia, hanno assimilato il concetto che gay è sbagliato, che essere omosessuale rende infelici, che è necessario operare una scelta, o la tua famiglia di origine o la tua immodificabile infelicità? Quante persone hanno dato del buon padre di famiglia alla figura rappresentata da Edoardo in questa commedia, quando pone al figlio una scelta, o la tua vita, sbagliata, inaccettabile ed inevitabilmente pericolosa perché guarda dove sei finito, oppure il mio affetto, che otterrai, vada bene, solo se rinunci ad essere te stesso. Chissà come reagirebbe oggi Edoardo. È tanto l'amore che ha sciolto, ma mi si demana. Oh, vecchio, la gente aveva chiesto, ma chiama puttana. Non ho già saputo mai sto carcerato in da casa. E non mi ho capito le chieste, non l'ho già trovato. A chi mi schifo rito, poi col corpo tutto vino come a me. Non mi supporta chieste, ostaggi già. Mi sono specchiato tu, non te volesse mai guardare. Non te scorda, perché sennò che canta fa. Non te scorda, mai te. Non te scorda, perché sennò che canta fa. non ti ascoltava, non ti ascoltava mai. Allora, nel ringraziare ancora una volta Miriam ed Antonia della Casa dei Diritti di Milano, speriamo di aver sottolineato quanto sia importante andare ad incidere sulla cultura intervenendo con una politica culturale che sposti il sentire comune verso il riconoscimento delle differenze e che, così come anche la Casa dei Diritti di Milano sta cercando di delineare, si possa arrivare ad un avanzamento sociale e fare un salto in avanti. Seppure con modalità diverse, strategie ed approcci differenti, ritengo che noi del CLR e loro della Casa dei Diritti di Milano si stia operando per il raggiungimento di un obiettivo comune. Allora, augurandoci un reciproco buon lavoro, ricordiamo la mail di riferimento della Casa dei Diritti di Milano, antidiscriminazioni@comune.milano.it. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.